Ad alta voce, Iaia Forte legge Nudi e crudi di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria Letizia. Quando aveva confidato a Dusty di non provare nostalgia dei suoi arredi, Mrs. Ransom era stata sincera. Piuttosto, ma questo era più difficile da esprimere, le mancavano i particolari percorsi che seguiva da una cosa all'altra. Ad esempio, c'era quel cappello verde col pompon, mai messo, che lasciava sulla console nell'ingresso per ricordarsi che aveva acceso lo scaldabagno. Adesso non aveva più né cappello né console. Ringraziando il cielo, lo scaldabagno c'era ancora. Ma senza quel cappello, le era già capitato due volte di lasciarlo acceso tutta la notte e una volta Mr. Ransom si era scottato una mano. Anche lui aveva dovuto rinunciare a certi suoi riti. Per esempio, non aveva più le forbicine ricurve con cui si tagliava i peli delle orecchie. E non finiva qui. Pur non essendo particolarmente vanitoso, Mr. Ransom aveva due baffetti che, se abbandonati a se stessi, mostravano l'antipatica tendenza a diventare rossicci, sfumatura che egli teneva a bada con sporadiche pennellate di tinta per capelli. La tinta proveniva da un vetusto flaconcino che Mrs. Ransom aveva sperimentato anni prima sulle radici e cassato all'istante. Tuttavia si conservava ancora in fondo all'armadietto del bagno. Mr. Ransom, che prima di applicare la tinta sulla parte interessata si chiudeva sempre dentro a chiave, non aveva mai confessato quell'attività. Ma nemmeno Mrs. Ransom aveva mai confessato di esserne al corrente. Ora però l'armadietto era scomparso e con quello il flaconcino. Di conseguenza i baffi di Mr. Ransom cominciarono a colorarsi di quel fulvo rivelatore che egli trovava tanto odioso. Avrebbe potuto risolvere il problema chiedendo alla moglie di comprargli un altro flaconcino, ma così avrebbe ammesso anni di cosmesi clandestina. Altrimenti poteva comprarsene uno da sé. Ma dove? Il suo barbiere era polacco e parlava un inglese che non andava più in là di barba e capelli. Forse un profumiere comprensivo. Ma le profumerie a lui note non gli sembravano luoghi in cui trovare comprensione, servite com'erano da annoiate puttanelle diciottenni che non avrebbero avuto molta pazienza con un avvocato di mezz'età dal rossiccio strisciante. In bagno, controllando i progressi del rossiccio nell'unico specchio rimasto in casa, quello del portacipria della moglie, Mrs. Ransom maledisse i ladri che lo avevano così umiliato, mentre Mrs. Ransom, sdraiata sulla brandina, rifletteva che il furto, non da ultimo, aveva fatto piazza pulita dei loro piccoli sotterfugi coniugali. Mr. Ransom era stato informato del fatto che l'assicurazione non avrebbe sovvenzionato il noleggio di un lettore CD, non ritenuto un bene essenziale, ma quello di un televisore sì. Perciò una mattina Mrs. Ransom andò in un negozio e scelse il modello più sobrio che le venne consegnato e installato quel pomeriggio. Convinta di avere altre urgenze, Mrs. Ransom non aveva mai guardato la televisione di giorno, ma una volta che il tecnico se ne fu andato, vide che l'apparecchio era rimasto acceso su una specie di talk show che ospitava una coppia di americani obesi ai quali una nera in completo pantalone stava domandando se comunicassero sul piano fisico. L'uomo, stravaccato su una poltrona a gambe larghe, cominciò a descrivere in gran dettaglio, tempi televisivi permettendo, ciò che lui chiedeva al suo matrimonio, mentre la donna, braccia conserte e ginocchia chiuse, ma troppo grassa per fare la compita, spiegò che, senza voler essere ipercritica, lui non si era mai messo un deodorante che fosse uno. «Quel che si dice linguaggio del corpo», commentò la conduttrice, e il pubblico scoppiò in un boato di risa e fischi, lasciando perplessa Mrs. Ransom, che di linguaggio del corpo non aveva mai sentito parlare. «Cosa non fa la gente per denaro?» si disse spegnendo la TV. Il pomeriggio seguente, però, dopo un sonnellino sul saccone, si ritrovò a guardare un programma simile con una coppia altrettanto impudica e lo stesso pubblico rumoreggiante e incline allo sberleffo, in mezzo al quale si aggirava, con un microfono, un'altra presentatrice, stavolta bianca, ma imperturbabile come la prima, e come lei indifferente alla maleducazione generale, che anzi pareva incoraggiare. Queste presentatrici, Mrs. Ransom aveva ormai cominciato a seguirle regolarmente, erano più o meno tutte uguali, tutte ragazzone sfrontate e, secondo lei, fin troppo sicure di sé, personalità che si definiscono assertive, almeno così le sembrava. Magari l'avrebbe controllato sul vocabolario di suo marito. E avevano dei nomi che sfidavano ogni distinzione di genere. Robin, Bobby, Troy, oppure altri come Tiffany, Paige, Kirby, che a quanto ne sapeva lei, non erano nomi per niente. Presentatrici e pubblico usavano espressioni che Mrs. Ransom, perlomeno agli inizi, ebbe difficoltà a capire. Parlavano di preliminari, orgasmi multipli, di consapevolezza profonda e del bambino che in noi. Era un linguaggio fatto di confessioni ed esuberanti dichiarazioni di affetto. «Ti sento molto», si dicevano, dandosi a vicenda un colpetto sulla mano. «Sono in contatto con te». Si presentò una tale Felicia che avrebbe voluto lunghe e affettuose interazioni sessuali con il marito Dwight, il quale invece correva troppo e trascurava le sue zone erogene. Quei due, fu il giudizio unanime, dovevano sviscerare l'argomento e il luogo che avevano scelto era proprio lì, davanti a un'orda sardonica assetata di sensazioni forti che, quando ai titoli di coda i due si avventarono vogliosi l'uno sull'altra e le labbra di lui si incollarono a quelle di lei, ululò la propria approvazione davanti al sorriso, ora più saggio e triste, della presentatrice, che mentre la coppia continuava a baciarsi chiuse con un «Grazie a tutti!». Una cosa alla quale Mrs. Ransom non riuscì mai ad abituarsi era la totale mancanza di ritegno degli ospiti, nessuno dei quali risultava mai anche solo lontanamente timido. Se c'era un programma sulla timidezza, nessuno sembrava timido nel senso che intendeva lei. Gli ospiti, totalmente disinibiti, non vedevano l'ora di vantarsi della propria paralizzante insicurezza e delle conseguenze grottesche di tanta castrante sfiducia in se stessi. Per quanto privato o intimo fosse l'argomento, nessuno di questi vocianti individui si mostrava mai minimamente schivo. Anzi, sembrava una gara chi escogitava le confessioni più indecorose e volgari. E il pubblico salutava ogni rivelazione con un boato di grida sgangherate, subissando i partecipanti di consigli e incitandoli a riferire altre nefandezze. D'accordo. In rare occasioni qualcuno del pubblico esternava non giubilo ma scandalo, dando perfino la fugace impressione, di fronte a una confessione davvero madornale, di essere rimasto sinceramente turbato. Ma questo succedeva solo perché la presentatrice, occhieggiando di nascosto il pubblico da dietro le spalle del reo confesso, sollecitava l'indignazione con una smorfia. La presentatrice era una complice, riflettè Mrs. Ransom, e non ci faceva una figura migliore degli altri, specialmente quando si affannava a ricordare all'ospite certe sue gesta ancora più fantasiose e indecenti, confidatele nella presunta intimità del camerino. Quando lei gli rinfrescava la memoria, l'ospite inscenava una caricata pantomima della vergogna, nascondendo la testa, coprendosi il viso con le mani in preda a un attacco di risa apparentemente irrefrenabili, per dare a intendere che non si era mai aspettato di vedere reso pubblico e men che meno spiattellato davanti alle telecamere un segreto del genere. Eppure, pensava Mrs. Ransom, erano tutte persone migliori di lei. Sì, perché nessuna di quelle creature rumoreggianti, ridanciane e spesso obese sembrava mettere in dubbio che, a livello primitivo di quei programmi, la gente è tutta uguale. Vergogna e imbarazzo erano fuori questione e fingerli significava essere presuntuosi ed ipocriti. Mrs. Ransom pensò che lei apparteneva certo alla prima categoria e suo marito, probabilmente, alla seconda. Il contenuto dell'appartamento era assicurato per 50.000 sterline. Dopo aver iniziato con una cifra molto inferiore, da avvocato e uomo accorto qual era, Mr. Ransom aveva fatto sì che il premio stesse al passo con il costo della vita. Negli anni, dunque, quel modesto insieme di mobili, elettrodomestici e suppellettili varie era andato pian piano aumentando di valore. Lo stereo e il frullatore, il servizio di posate, le insalatiere in silver plate, le tovagliette, i centrini, insomma tutto l'apparato di quell'esistenza che, pur essendo perfettamente attrezzati allo scopo, i Ransom non erano mai riusciti a condurre, avevano discretamente seguito la curva dell'inflazione. Roba resistente, sobria, austera, comprata pensando alla praticità e non all'estetica, coscienziosamente spolverata e lucidata anno dopo anno, tanto da non recare quasi traccia d'usura. Roba che non aveva mai subito sconvolgimenti di sorta e della quale ben poco era andato rotto o perduto fino alla tremenda sera dell'imboscata, quando la piccola e anonima truppa era stata spazzata via e Mrs. Ransom aveva perduto per sempre quelle che lei chiamava con modestia le nostre cose. O così arrivò a stabilire l'assicurazione, che a tempo debito inviò un assegno per il valore complessivo dei beni più un bonus inatteso, vista l'assenza di precedenti sinistri, a titolo di risarcimento dei danni morali. «L'extra è per il trauma», disse Mrs. Ransom guardando l'assegno. «Preferisco chiamarlo incomodo», le rispose Mr. Ransom. «Siamo stati derubati, non investiti da un autobus. Comunque i soldi in più non guastano». Mr. Ransom, infatti, stava già mettendo a punto il piano d'acquisto di un impianto stereo più avanzato e di un modello aggiornato del suo lettore CD con perfetta equalizzazione e alta definizione del suono digitale, il tutto collegato a una maestosa coppia di casse in mogano lavorato a mano. Avrebbe sentito Mozart come non mai. Mrs. Ransom se ne stava seduta felice e contenta su una sedia a dondolo di vimini da 4 soldi trovata qualche settimana prima in un negozio di mobili di Edward Road, in cui una volta non si sarebbe mai sognata di entrare. Un negozio con un'esposizione di salotti pacchiani, quadri di clown e, ai lati della porta d'ingresso, 2 leopardi di porcellana a grandezza naturale. Un negozio cafone, l'avrebbe considerato una volta, come una parte di lei lo considerava ancora. Se non che gliel'aveva consigliato Mr. Hanward e di fatto quella sedia a dondolo era comodissima. A differenza della sua vecchia poltrona, non le faceva venire il mal di schiena. Ora che l'assegno era arrivato, aveva in mente di prenderne una uguale per Mr. Ransom. Nel frattempo, aveva comprato un tappeto da metterci sotto, col disegno di un elefante che una lampada d'ottone, acquistata nello stesso negozio, riempiva di colori. Seduta in mezzo al soggiorno spoglio, sulle spalle quello che, stando a Mr. Hanward, era un drappo da preghiera afghano, le sembrava di essere su un'isoletta accogliente e vagamente esotica. Non altrettanto accogliente poteva definirsi per ora l'isola di Mr. Ransom, una semplice sedia accostata al tavolo pieghevole sul quale sua moglie aveva posato la lettera che costituiva tutta la posta giornaliera. Mr. Ransom prese la busta e, sentendo odore di curry, domandò: «Che c'è per cena?» «Spezzatino al curry!» Mr. Ransom voltò la lettera. Sembrava una fattura. «Di cosa?» «Di agnello!» rispose Mrs. Ransom. con le albicocche. Secondo te, proseguì, Bianco sarebbe troppo sé. Bianco? Che cosa? Domandò Mr. Ransom guardando la lettera in controluce. Beh, rispose lei titubante, i muri, tutto insomma. Mr. Ransom non rispose, stava leggendo la lettera. Non ti entusiasmare troppo, le disse poi in macchina mentre andavano a Aylesbury. Potrebbe essere un altro scherzo, qualcuno che si diverte alle nostre spalle. In realtà erano d'umore cupo entrambi, come cupa era la campagna. Da quando si erano messi in viaggio, non avevano quasi aperto bocca. Mrs. Ransom teneva sulle ginocchia la lettera con le istruzioni scritte a matita dal marito. Alla rotonda a sinistra, pensò Mr. Ransom. Alla rotonda gira a sinistra, gli disse la moglie. Quando quella mattina aveva telefonato al magazzino, gli aveva risposto una ragazza. La ditta si chiamava Traslochi e Stoccaggi Rapidi e Sicuri. Tutte quelle E, si era detto, preannunciavano guai. E i suoi timori non furono smentiti. Traslochi e stoccaggi rapidi e sicuri, buongiorno. Sono Christine Tosby. Posso esserle utile? Mr. Ransom chiese di parlare con Mr. Ralston, che aveva firmato la lettera. Al momento Mr. Ralston si trova a Cardiff. Posso esserle utile? Quando torna? Non prima della settimana prossima. Sta facendo un tour dei nostri depositi. Posso esserle utile? Nonostante le sue profferte, Christine dimostrava tutto il consumato distacco di chi si sta laccando in permanenza le unghie, e quando Mr. Ransom le spiegò che il giorno prima aveva ricevuto una misteriosa fattura di 344,36 sterline riguardante il deposito di certi effetti d'uso domestico, lei ribatté semplicemente «E allora?» Lui cominciò a illustrarle la situazione. E di fronte all'ipotesi che gli effetti in questione potessero essere rubati, Christine si animò. «Permette una parola? Mi sembra improbabile. Voglio dire, sa, la trasloca e stoccaggio esiste dal 77. Mr. Ransom cambiò tattica. «Non è che per caso saprebbe dirmi se fra questi effetti d'uso domestico è compreso un vecchio impianto stereo?» «Mi dispiace, temo di non poterle essere utile, ma tenga presente che se ha degli oggetti in deposito risulta sul C-47, di cui lei dovrebbe avere una copia. È una velina gialla!» Mr. Ransom cominciò a spiegare perché non aveva la velina, ma Christine tagliò corto. «Io sono a Newport Pagnell, per cui non ne so niente. Qui ci sono gli uffici. Il deposito è a Aylesbury. Ormai uno può stare dove vuole, tanto si fa tutto col computer. La persona che potrebbe esserle utile a Aylesbury si chiama Martin, ma so che oggi è fuori quasi tutto il giorno.» «Secondo lei, le chiese Mr. Ransom, non mi converrebbe fare un salto a Aylesbury per vedere se per caso trovo qualcosa?» Christine non si mostrò entusiasta. «Certo non posso impedirglielo», rispose. «Solo che lì non sono attrezzati per ricevere visite. Mica è un canile!» aggiunse inspiegabilmente. Poiché suo marito le aveva detto che il deposito si trovava in un parco d'imprese, Mrs. Ransom, digiuna in materia, lo immaginò calato in un paesaggio ameno, un parco di nome di fatto, appartenente a una magione adattata con sensibilità alle esigenze moderne, punteggiato magari di radi laboratori, gli uffici discretamente nascosti tra gli alberi. Nel cuore di questo centro imprenditoriale immaginò una villa di campagna in cui donne alte con un fascio di cartelline sotto il braccio attraversavano a lunghe falcate le terrazze, mentre le dattilografe lavoravano in saloni dorati con i soffitti dipinti. Visione che, pensandoci, avrebbe potuto far risalire a quei film di guerra in cui gli chateau francesi, requisiti dal comando tedesco, tornano a fervere d'attività alla vigilia del D-Day. Fu dunque un bene se Mrs. Ransom non confidò le sue romantiche aspettative al marito, il quale, consulente legale di varie società, le avrebbe liquidate senza tanti complimenti. Mrs. Ransom cominciò a ricredersi non appena si trovò a percorrere una circonvallazione brulla e squallida, fiancheggiata da fabbrichette e assediata dal cemento e dalle erbacce. «Non è mica tanto ameno», commentò. «E perché dovrebbe?» ribatté Mr. Ransom, che stava svoltando verso un cancello metallico assai poco palladiano. «Ci siamo!» disse Mrs. Ransom guardando la lettera. Il cancello interrompeva una recinzione alta più di 2 metri e ornata da una mantovana sbieca di filo spinato, sicché il posto, più che un parco, sembrava un carcere. C'era anche una specie di fortino in cemento, vuoto, con una mappa di metallo giallo e blu che indicava la posizione delle varie ditte del consorzio. Mr. Ransom scese dalla macchina per controllare dove fosse il settore 14. «Voi siete qui», diceva una freccia, e davanti alla punta qualcuno aveva disegnato alla meno peggio un culo. A quanto pareva, il settore 14 era qualche centinaio di metri dal perimetro esterno, su per giù all'altezza dell'ombelico, qualora il culo fosse stato disegnato in scala. Mr. Ransom risalì in macchina e si inoltrò lentamente nel crepuscolo sempre più fitto, finché non arrivò a un fabbricato basso e largo che sembrava un hangar, con una doppia porta scorrevole verniciata di rosso e una sola scritta in cui si rendeva nota la presenza di cani da guardia. Non c'erano altre automobili, né si vedeva anima viva. Mr. Ransom tirò la porta scorrevole, senza aspettarsi di trovarla aperta. Come appunto non era. «È chiusa!» osservò la moglie. «Ma non mi dire!» bofonchiò lui. Poi si incamminò deciso e svoltò l'angolo, seguito più adagio da Mrs. Ransom, che procedeva incerta fra il pietrisco, il clinker e gli sparuti ciuffi d'erba. Mr. Ransom sentì qualcosa di scivoloso sotto una scarpa. «Attento alle cacche di cane!» lo avvertì la moglie. «Qui è pieno!» Una scaletta scendeva fino a una porta del piano interrato. Mr. Ransom provò ad aprirla. Forse dava accesso a un locale caldaia. Ma era chiusa anche quella. «Sembrerebbe un locale caldaia», commentò Mrs. Ransom. Lui si pulì la suola su un gradino. «Almeno loro potrebbero dare il buon esempio», disse Mrs. Ransom. «Chi?» chiese Mr. Ransom, strusciando la scarpa contaminata sull'erba rada. «I cani da guardia!» Avevano fatto quasi il giro completo dell'hangar quando arrivarono davanti a una finestrella ghiacciata da cui filtrava una luce fioca. La finestrella, col vetro appena abbassato, apparteneva senza dubbio a un gabinetto e Mrs. Ransom scorse all'interno un rotolo di carta igienica appoggiato sul davanzale. Era sicuramente una coincidenza che fosse azzurro, per la precisione carta da zucchero, sfumatura che lei aveva sempre prediletto e che non era sempre facile trovare. Mrs. Ransom schiacciò il viso contro il vetro per vedere meglio e notò qualcos'altro. «Guarda, caro!» disse, ma Mr. Ransom non guardò, stava ascoltando. «Zitta!» ordinò. Aveva sentito Mozart e dallo spiraglio arrivarono le note scure, piene, sontuose e decisamente inconfondibili di Kyrie Kanawa. «Per pietà, ben mio, perdona», cantava, «all'errore di un amante». Il canto fluttuò lentamente nell'aria umida della sera, librandosi sopra la traslochi e stoccaggi del settore 14 e l'adesivi croda del settore 16, fino a raggiungere l'applicatori Lesil Sealant del settore 20, essendo i settori 17 e 19 attualmente in vendita. «Oddio», cantava Kiri, «oddio». Lo udì anche la strada perimetrale, come lo udirono gli alberelli stenti e incellofanati che lo punteggiavano e l'urido fiumiciattolo che da un dotto di cemento si disperdeva nel campo bozzoluto giù in fondo, dove un ronzino malconcio stava contemplando 2 barili e un palo. Galvanizzato dalle missioni della cantatrice antipode, Mr. Ransom si arrampicò su per la grondaia e penando non poco si inginocchiò sul davanzale. Poi si aggrappò con una mano alla grondaia, abbassò il vetro di altri 3 o 4 centimetri e ficcò dentro la testa fin dove riuscì, rischiando per un attimo di scivolare. «Stai attento!» gli disse la moglie. «Ehi!» gridò lui. «C'è nessuno!» Mozart si interruppe, mentre in lontananza passava un autobus. Nel silenzio che seguì, Mr. Ransom gridò, stavolta quasi garrulo: «C'è nessuno!» In un istante si scatenò il finimondo. I cani abbaiarono, una sirena attaccò l'ulare e i Ransom, presi in trappola, vennero abbacinati da 5 o 6 riflettori puntati dritti sulle loro sagome rattrappite. Mr. Ransom, pietrificato, si aggrappò disperatamente alla finestrella e Mrs. Ransom, spalmata sul muro, fece strisciare una mano fino al davanzale, non vista si augurò, cercando il conforto del ginocchio coniugale. Poi, così come era cominciato, il finimondo cessò. I riflettori si spensero, la sirena tacque e i latrati dei cani si ridussero a qualche ringhio isolato. Mr. Ransom, ancora tutto tremante, udì una porta che si apriva e un rumore di passi che attraversavano senza fretta il cortile. «Scusate, gente!» disse una voce maschile. «È partito l'allarme! Battaglia contro il crimine!» Mrs. Ransom scrutò nel buio, ma ancora mezzo accecata dai riflettori, non vide nulla. Mr. Ransom scivolò giù dalla grondaia e restò immobile accanto alla moglie, che gli prese la mano. «Prego, signori e signori, da questa parte!» I Ransom avanzarono barcollando fra gli ultimi ciuffi d'erba e raggiunsero il cemento. Davanti alla porta aperta, in controluce, li aspettava un giovanotto. Storditi, marito e moglie lo seguirono nell'hangar illuminato. Erano ridotti da far pietà. Mrs. Ransom zoppicava perché le si era rotto un tacco e aveva tutte e due le calze smagliate. Mr. Ransom si era strappato i calzoni al ginocchio, aveva le scarpe sporche di merda e infilando la faccia nella finestrella si era fatto un lungo sbaffo nero sulla fronte. Il giovanotto sorrise e tese loro la mano. «Maurice, Rosemary, piacere, Martin». Aveva un bel viso aperto e anche se sfoggiava quel pizzetto che a Mrs. Ransom faceva subito pensare ad un avvelenatore, per essere un magazziniere aveva un'aria piuttosto distinta. Certo, portava l'irrinunciabile berretto da golfista americano e dietro, sopra l'elastico, gli zampillava un ciuffetto di capelli. In più, sempre come quelli lì al giorno d'oggi, lasciava il dietro della camicia a penzoloni. Comunque, ciò che agli occhi di Mrs. Ransom gli dava un tono era l'elegante cardigan bordeaux, non molto diverso da quello che lei aveva comprato per suo marito ai saldi dell'anno prima. Il giovanotto, inoltre, portava morbidamente legata al collo una sciarpa di seta gialla con una fantasia a teste di cavallo. Anche questa somigliava a una sciarpa che Mrs. Ransom aveva regalato al marito, che però se l'era messa una volta sola perché la trovava volgarotta. Questo ragazzo non sembrava volgarotto, anzi, aveva molta classe e Mrs. Ransom pensò che se mai fossero riusciti a recuperare le loro cose avrebbe ripescato la sciarpa dall'armadio e convinto il marito a ricredersi. «Prego, entrez!» disse il giovanotto facendo strada lungo un corridoio freddo e spoglio. «È bello conoscervi finalmente!» aggiunse voltandosi a guardarli. «Anche se, date le circostanze, ho l'impressione di conoscervi già». «Quali circostanze?» fece Mr. Ransom. «Un attimo di pazienza», rispose Martin. Armeggiò con una serratura lasciandoli al buio. «Getterò rapidissimamente luce sulla faccenda», annunciò dopo un momento, e la stanza di fronte a loro si illuminò. «Accomodatevi», disse ridendo.